si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare. Staremo insieme fino alle 10. I nostri contatti, se volete interagire con noi da subito in tempo reale, l'account Twitter del programma è chiocciola Si può fare 24, il mio è chiocciola Ale Maurizi. Siamo anche su Facebook, Si può fare trattino radio 24. La legge di stabilità va verso la sua definitiva versione, anzi sono state pubblicate ieri le tabelle, parleremo di questo, parleremo del bonus bebè, perché è una misura, naturalmente nessuno rifiuterà o rifiuterebbe 80 euro al mese per ogni nuovo nato, ma ci si domanda, molte neomamme si domandano a cosa servono questi 80 euro, già che insomma l'asilo nido per esempio costa 3, 4, 500 euro al mese, allora insomma non sembra una misura in grado di incidere davvero sulla natalità, una misura che costa poco al governo, 200 milioni di euro, rende molto in termini di immagine, ma serve probabilmente a niente. Forse era meglio finanziare un piano di copertura per dei posti mancanti in tutte le città, negli asili nido. Di questo parleremo, parleremo anche d'altro, ma naturalmente poi una lettura alle prime pagine dei giornali, ma adesso cominciamo come sempre con una buona notizia. E allora, la notizia è questa: a Milano le mense scolastiche da gennaio diventano totalmente ecosostenibili, un modo per far risparmiare le tasche del comune di Milano e quindi dei cittadini contribuenti, ma anche e soprattutto per risparmiare danni all'ambiente, perché insomma verranno usate soltanto stoviglie ecosostenibili oppure cose da lavare, insomma come si faceva una volta, non più plastica usa e getta. E questa è una tendenza che va sempre di più diffondendosi, una tendenza sicuramente buona, perché ripeto, diminuiscono gli sprechi per la collettività ma anche per l'ambiente. Vai! Ma adesso andiamo a vedere di che cosa si occupano i giornali di oggi. Naturalmente c'è spazio per il tema della legge di stabilità, come dicevamo. Poi si parla un po' anche delle manifestazioni a confronto, la Leopolda e la manifestazione della CGIL oggi in piazza a Roma. In realtà ci sono diversi cortei. Cominciamo con il Corriere della Sera. Renzi, sì dall'Europa alla manovra, ma l'Italia correggerà il deficit. Una correzione del deficit strutturale, quello depurato dall'effetto della congiuntura, pari allo 0,3% del PIL, più 0,2% rispetto a quanto previsto dal governo. Questo sarebbe il compromesso tra l'Italia e l'Unione Europea dopo, come sapete, la lettera con cui l'eurocommissario Katainen, il custode del rigore merkeliano, aveva chiesto chiarimenti sulla legge di stabilità. Ci sono naturalmente anche altri argomenti sul Corriere. Si parla dello stress test, test delle banche in previsione, i cui risultati saranno resi noti domani. C'è anche la fotonotizia di Obama che abbraccia l'infermiera guarita dall'Ebola, l'abbraccio di Obama contro la paura di Ebola. Primo caso di Ebola a New York, riguarda un medico di 33 anni appena rientrato dall'Africa. Intanto il presidente riceve alla Casa Bianca e contro la paura della malattia abbraccia Nina Pham, infermiera di Dallas dichiarata guarita dal virus. Ma a proposito invece dei temi economici italo-europei, c'è un piccolo retroscena del Corriere, se lo trovo, non lo trovo, vediamo, l'avevo letto, ecco, esattamente, eccolo qua, e riguarda il diverso atteggiamento della Francia con l'Europa rispetto all'Italia, Hollande e Renzi a confronto. Il commissario europeo Katainen ha inviato la lettera a entrambi i paesi, ma Italia e Francia hanno reagito in modo diverso. Se Matteo Renzi l'ha subito resa pubblica, non nascondendo l'irritazione, François Hollande ha cercato di sminuire la sua portata. Si è rifiutato di diffonderla, sostenendo che era una lettera molto banale, una semplice richiesta di informazioni. Non solo, ma con una battuta al presidente francese ha sottolineato la differenza di atteggiamento con il premier italiano. Con la commissione, ha detto Hollande, dialoghiamo per telefono, non ancora attraverso i tweet, in riferimento proprio a Renzi, o per via epistolare. Insomma, da qui il titolo: noi non dialoghiamo con i tweet. Hollande si smarca da Renzi e abbassa i toni con Bruxelles. Il diverso atteggiamento, insomma, l'Italia. Renzi, che ne ha fatto un caso di questa lettera, quasi a voler mostrare alle opposizioni dalla Lega, Grillo, ma anche Forza Italia, che lo contestano per una presunta debolezza in Europa, a dire: vedete, io non sono debole in Europa, tant'è vero che ho puntato i piedi e adesso ci arrivano le lettere, ma io vado avanti. E invece Hollande, che pure ha già annunciato di voler sforare i parametri europei, di fronte alla lettera di Bruxelles fa soprattutto finta di nulla. Sempre sul Corriere, qualche piccolo, diciamo, dettaglio lo vedremo anche più avanti sul Sole 24 Ore, sulle tabelle pubblicate per quanto riguarda la legge di stabilità arrivata ieri alla Camera. Alcune, insomma, il titolo del Corriere è questo: taglia ai ministeri per 2 miliardi di euro, che sono pochini, perché si era parlato di 4 miliardi. Adesso poi vedremo come faranno a far tornare i conti. Dalla difesa ai risparmi per 500 milioni di euro, i tagli, lo sapete, riguardano tutti, dai comuni alle regioni, ai ministeri, ma anche 100 milioni tolti ai non autosufficienti, e questo sicuramente non è una buona notizia, 150 milioni tolti ai patronati dei sindacati, e questo forse è una notizia, diciamo, più da decriptare. Altre misure: bonus bebè fino a 90.000 euro, come detto ne parleremo anche noi più avanti. È una misura di cui si parla molto, ma che costa poco al governo, sono 200 milioni di euro e andranno alle famiglie che hanno un reddito non superiore a 90.000 euro complessivamente. Poi ci sono, c'è meno IRAP per le imprese, 2,7 miliardi l'introito, c'è il TFR in busta paga, da marzo sarà possibile quindi per i lavoratori scegliere, una misura che alla fine di sicuro mette in conto per l'erario maggiori entrate, perché, scrive il Corriere, attesi 2,2 miliardi di maggiori entrate fiscali per la tassazione di questa quota del TFR che va in busta paga. Cioè ti metto il TFR in busta paga, naturalmente te lo tasso come qualunque altro pezzo di retribuzione e quindi incasso 2,2 miliardi che dovrebbero superare i 2 miliardi di buco che si creerebbe all'INPS. Ma c'è un'altra via per cui le entrate da questa misura dovrebbero superare 200, 300, forse 400 milioni di euro. Poi ci sono i 340 milioni di euro che arriveranno dall'aumento della tassazione sui rendimenti dei fondi pensione. E va bene, questo il Corriere. Sul Sole 24 Ore, dicevamo, spese e tasse, tutti i numeri, ci sono tutte le tabelle, anche qua abbastanza dettagliate su quello che sarà la legge di stabilità. Vi leggo però in questa fase di rassegna il commento di Fabrizio Forché. In favore della manovra di Renzi va detto che i saldi finali sono penalizzati dalla contabilizzazione del bonus di 80 euro tra le maggiori spese, non tra le riduzioni fiscali, ma anche con lo spostamento di questi 10 miliardi il risultato finale sul fronte delle spese e su quello delle entrate non è quell'operazione, qui è il punto, di draconiana riduzione di spesa pubblica e corrispondente pressione fiscale che era stata prefigurata e sarebbe necessaria a far ripartire l'economia del paese. Cioè, dice il Sole 24 Ore, non c'è il taglio della spesa e della pressione fiscale che ci aspettavamo. Però bisogna anche ricordare, prosegue Forché, che la manovra elimina l'odioso prelievo sulla componente lavoro dell'IRAP, una tassa che penalizza le imprese che fanno occupazione, e azzera per 3 anni i contributi alle aziende che assumono a tempo indeterminato. Insomma, luci ed ombre anche in questo caso. Del resto, come sempre, su sulla legge di stabilità, almeno come la vede il Sole 24 Ore. Abbiamo ancora pochi secondi prima della pausa. Renzi tregua con l'Unione Europea, deficit corretto dello 0,3, scrive Repubblica, CGIL il giorno della piazza. Di questo parleremo più avanti. Adesso rassegna stampa europea, giornale radio tra 20, 25, 30 minuti circa. Ci risentiamo a dopo. Si può fare cronache da un paese migliore. Di nuovo buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare. 800 24 00 24 il numero verde per intervenire in diretta. Potete cominciare già adesso a prenotare i vostri interventi se volete commentare quello che sentite, più avanti anche per commentare le nostre buone notizie come sempre, e anche il gioco di oggi, però ve ne parleremo tra pochissimo. Adesso riprendiamo a dare un'occhiata alle prime pagine e anche alle pagine interne dei giornali di oggi. Si parla del braccio di ferro tra l'Italia e l'Europa sulla legge di stabilità, naturalmente si parla delle due giornate di oggi, ma anche di domani, la manifestazione a Roma, le manifestazioni a Roma dei sindacati, l'evento a Firenze, alla Leopolda, dove si ritrovano i renziani della prima e della ultima ora, e poi insomma anche i numeri per esempio della legge di stabilità, perché le tabelle sono state presentate ieri alla Camera dei Deputati, quindi si comincia a saperne qualcosa di più. Noi parleremo anche di un aspetto della legge di stabilità tra poco, con il primo approfondimento, bonus bebè, un provvedimento che costa poco perché sono 200 milioni di euro all'interno di una legge di stabilità di miliardi di euro, rende molto in termini di immagine sicuramente, perché insomma nessuno rifiuterà o rifiuterebbe 80 euro al mese per ogni nuovo nato, ma che serve probabilmente a poco in termini di sostegno alla famiglia, alla natalità, insomma diciamocelo, perché una famiglia benestante con 80 euro in più o in meno per ogni bambino sicuramente non se ne accorge, non fa una grossa differenza. Per chi invece avrebbe bisogno di un sostegno, ricordiamoci che l'asilo nido costa 3, 4, 5, a volte anche 600 euro al mese, sia se è pubblico c'è l'integrazione da pagare, sia se è privato. Quindi questo è un po' quello che è stato messo in evidenza da più parti, ne parleremo tra poco. Adesso però, come detto, sui giornali di oggi. Corriere della Sera, Renzi sì dall'Europa alla manovra, ma l'Italia correggerà il deficit. Una correzione del deficit strutturale pare lo 0,3% del PIL. Sarebbe questo il compromesso tra l'Italia e l'Europa dopo la lettera con cui l'eurocommissario Katainen aveva chiesto chiarimenti sulla legge di stabilità. Qualche dettaglio su questa vicenda l'abbiamo letto nella prima parte di rassegna. Ci sono le tabelle sul Sole 24 Ore di oggi con le entrate e le uscite, 10 miliardi e 700 milioni di euro di misure per la crescita tra IRAP, TFR in busta paga e 80 euro confermati sempre in busta paga. Poi ci sono insomma tutte le altre misure via via, e i numeri li trovate appunto sul Sole 24 Ore, per esempio, dove c'è anche il commento di Fabrizio Forché. I numeri della manovra e la spinta che serve, si sottolinea come facendo i conti il taglio della spesa pubblica e la diminuzione della pressione fiscale conseguente non sono, dice Forché, quella operazione draconiana riduzione della spesa e corrispondente pressione fiscale che era stata prefigurata e che sarebbe necessaria. Però si fa presente come dal punto di vista delle imprese il taglio dell'IRAP e soprattutto dei contributi per 3 anni per tutti i neo assunti siano misure molto molto importanti e anche queste attese. Invece per quanto riguarda le due piazze, dicevamo, su Repubblica, CGIL il giorno della piazza. La CGIL in piazza, il Partito Democratico si divide, il Premier dice sono contro di me, il segretario della CGIL Camusso, il governo ci ascolti. L'articolo di Repubblica di Francesco Bei parla di scissione d'anime. Perché? Perché c'è chi, come per esempio il sottosegretario Graziano Del Rio, renziano di ferro, dopo aver avvertito che il Parlamento voterà il Jobs Act e non ci saranno deroghe, ha però detto che il suo cuore è con chi sta in piazza. Comincia a diventare difficile capire questa scissione d'anime. Poi c'è chi, come Cesare Damiano, prima testa CGIL nel 1970, ma anche ex ministro dei DS, dice: la schizofrenia c'è, esponente della Commissione Lavoro, credo presidente addirittura della Commissione Lavoro in Parlamento, dice: la schizofrenia c'è, riguarda un po' tutti noi che sosteniamo il governo ma andiamo in piazza con la CGIL, perché Damiano è uno di quegli esponenti del PD che sarà in piazza a protestare contro il Jobs Act, ma lo sostiene anche se cerca di riformarlo e di modificarlo per come è stato approvato da Renzi e dal ministro Poletti. Ci sono i lavoratori della FIOM che hanno scritto una lettera all'ex segretario della CGIL Guglielmo Epifani affinché prenda una posizione netta sul Jobs Act e si smarchi dalla linea del suo partito. C'è spazio anche per una polemica tra Nichi Vendola, segretario di SEL, e Susanna Camusso sullo sciopero generale. Nichi Vendola ha dato per scontato che dal palco di oggi verrà annunciato lo sciopero generale. La Camusso ha detto: ferma, siamo noi a decidere se faremo o no lo sciopero, dice la CGIL. La Camusso: fino a prova contraria la CGIL decide da sola, non dobbiamo seguire nessuna affermazione del dibattito tra i partiti politici. Sembra quasi che la Camusso non voglia sicuramente appiattirsi sulla linea di SEL, ma non voglia neanche dare per scontato questo sciopero generale e mettere così tanto in difficoltà il governo del pur sempre amico PD. Girando invece piazza e andando all'evento della Leopolda, si va sulla Stampa per trovare qualche notizia. La metamorfosi della Leopolda che prova a non tradire se stessa, scrive il quotidiano di Torino. I rottamatori al governo radunati a Firenze tra Amarcord e nuove sfide. Il commento di Davide Allegranti che dice: come si cambia stile governativo, arrivano i cani. Che la Leopolda sia diventata governativa, scrive Allegranti, lo vedi dai dettagli, lo vedi dalle acconciature delle signore, dall'abbigliamento più curato di quelli che un tempo erano solo consiglieri comunali e oggi sono diventati deputati e finanche ministri della Repubblica, lo vedi dai poteri più o meno forti che accorreranno fino a domani a fare un saluto al Premier, ma lo vedi pure dai cani. Già prima dell'inizio della Leopolda, a metà pomeriggio, sono arrivati i cani dell'unità cinofila a bonificare la vecchia stazione fiorentina per motivi di sicurezza, va da sé. Cani a caccia di gufi, finisce il commento di Allegranti. Poi gli sfottò dai cartelloni alla Leopolda: non poteva mancare quest'anno una cartellonistica anti-rosiconi, cioè una collezione di sberleffi nei confronti di chi ha fatto in passato previsioni sballate. È divertente, naturalmente è tutto autoriferito a chi prevede il fallimento del governo Renzi, quindi immaginate, no, il confronto con chi scrisse: manca di immaginazione e non ha idee originali, scrisse il direttore che licenziò Walt Disney. Oppure: rock and roll sarà passato di moda entro giugno, scrisse Variety nel 1955. Oppure scrisse il presidente di una società, la Digital Equipment Corporation, nel 1977: non c'è alcun motivo per il quale una persona dovrebbe avere un computer a casa sua. Questo per quanto riguarda il confronto, diciamo, tra le due piazze, manifestazioni CGIL in piazza oggi a Roma e all'interno della Leopolda la kermesse dei renziani. Torno su Repubblica perché c'è spazio anche per un commento per quanto riguarda la situazione interna a Forza Italia e Berlusconi. Cosa succede? Rivolta contro Berlusconi, i militanti sulle unioni civili e la cittadinanza: ti lasciamo. La rivolta, partita in sordina nei gruppi parlamentari, esce dal palazzo e tracima nel web. Trascorrono poche ore dalla svolta annunciata da Berlusconi sulle unioni civili e sullo Ius Soli e il sito ufficiale forzasilvio.it viene preso di mira da migliaia di militanti che giurano mai più un voto al partito e al suo leader perché hanno tradito programma e principi. A sera si contavano 55 pagine di commenti e reazioni, per lo più negativi, dopo un sondaggio lanciato proprio dal sito forzasilvio.it, un sito amico di Berlusconi, ma che evidenzia come sul tema delle unioni civili e dello Ius Solis, su cui Berlusconi ha recentemente aperto a Renzi, questa volta il partito potrebbe, la base insomma del partito, voltargli le spalle. Velocemente, sempre su Repubblica, il reportage di Bernardo Valli da Kobane, cittadina al nord della Siria al confine con la Turchia, sulle colline di Kobane, guardando la battaglia finale. È impressionante come Bernardo Valli, ultra ottantenne tra l'altro, scriva da questo luogo dicendo: un luogo modesto, isolato, perfino un po' poetico se regnasse la pace, è il teatro di scontri senza sosta, una sfida in cui gli americani e gli alleati hanno impegnato il prestigio, i curdi resistono, gli jihadisti attaccano, i jet bombardano. Se questo pugno di case cadesse, l'America e la coalizione perderebbero la faccia e un fremito percorrerebbe tutto il mondo musulmano. In realtà, dice Bernardo Valli, si combatte per un pugno di case vuote, non c'è più nessuno là dentro, un migliaio di abitanti, 2000 curdi che la circondano e lo scontro con gli jihadisti. Sembra stia diventando la battaglia campale. Ultima segnalazione sempre sulla stampa di oggi: il pullman per i Rom che divide la sinistra. Succede che a Borgaro il sindaco del PD decide di fare un pullman apposta per accompagnare i Rom al loro campo, anziché mantenere la linea normale per tutti con una fermata anche al campo Rom, perché c'erano molte proteste da parte dei cittadini che si lamentavano di disagi. Mi hanno puntato il coltello alla guancia, raccontano alcuni dei passeggeri della linea 69. Però che succede? Che questo è un sindaco di centrosinistra, arriva la sconfessione di Vendola che dice: bus, autobus solo per i Rom? Caro compagno, questo è apartheid. Il segretario di SEL sconfessa il suo assessore: se dimentichiamo i diritti, la politica è morta. Il commento invece di Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, dice: se l'avesse detto la Lega saremmo stati lapidati. Benché sia del PD, fa benissimo questo sindaco. La gente chiede qualcosa, bisogna dare risposte. Io prendo spesso i mezzi pubblici a Milano e su alcune linee dell'autobus sono infrequentabili. Questo accade alla periferia di Torino. 800 24 00 24. Ci fermiamo, torniamo tra un attimo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Ciao Alessio. Ciao Carlo, benissimo, ben ritrovati. Ripartiamo. 800 24 00 24, il nostro numero verde. Aspettiamo i vostri interventi, cari ascoltatori. E le vostre telefonate, assolutamente. Le telefonate, i vostri commenti, mettiamo al vaglio della vostra opinione le buone notizie di cui parleremo anche oggi. Oggi, più che buone notizie, andremo un po' a scandagliare, anche se si trattano di buone notizie. Per esempio, il bonus bebè. Esatto, che poi è un po' il nostro ruolo. Il nostro ruolo, esatto, sì, cioè, noi speriamo che siano lì. Esatto, noi le cerchiamo le buone notizie, non è che siamo certi che siano per forza buone notizie. Insomma, 80 euro al mese per ogni nuovo nato, uno dice: bene, ben venga, sì, però a che serve veramente? Ci chiediamo questo, perché abbiamo visto che ci sono diversi blog di neomamme, per esempio, di mamme o di giovani precari che dicono: beh, si poteva dare una mano agli asili nido, per esempio, anziché dare questi 80 euro che non servono, non bastano per pagare la rata. Quando li sentiamo capiremo meglio questa questione. Giusto? Benissimo. Poi giochiamo anche oggi. A me la notizia che mi ha incuriosito in questa settimana è ovviamente quello che è successo a Passignano in Umbria, dove dei genitori hanno ritenuto non idoneo un insegnante di danza per i loro figli perché questo insegnante è omosessuale. E il mio si può fare della settimana, senza dubbio, è stato scrivere un post sul mio Facebook personale nel quale chiedo a questi genitori che hanno che reputano non adatto insegnare danza ai loro figli un ragazzo ragazzo, un insegnante, un professionista gay, obbligandolo così a dimettersi. Mi chiedo se loro vietano ai figli anche di acquistare, non so, abiti firmati da stilisti gay, o mi chiedo se beccate la vostra prole intenta a leggere libri di Thomas Mann, Proust, Virginia Woolf, Lai Orsenan o infiniti altre, se glieli strappate di mano e li buttate nel camino. Cioè, ma quindi a casa vostra voi usate carta e penna, cioè per le cose importanti, anche dei vecchi ciclostili oppure un pallottoliere arrugginito, in quanto non può essere ammesso nulla che abbia a che fare con un computer, perché Alan Turing, il padre della moderna informatica, era gay, così vi informo. Ma quindi voi vietate ai vostri figli di guardare anche un solo episodio di Camera e Caffè perché lo scrivo io? Boh, ma quindi voi quando salite sull'autobus con i vostri figli, poverini, prima andate ad informarvi dall'autista su quali siano le sue preferenze in amore, pronti a scendere nel caso non fossero di vostro gradimento o a richiederne il licenziamento? Perché io penso che ci siano una miriade di piccole porte per tornare al Medioevo, e si può anche prenderle per scendere e decidere di scendere da questo mondo e ritrovarsi in un istante in una gigantesca radura in ospitale. E se volete, secondo me, voi potete, sia con i vostri figli sia senza i vostri figli, tranquillamente attraversare queste porte, scendere da questo mondo. Però non portateci con voi, perché io resto qui a proseguire il viaggio verso un futuro migliore. Si può fare. A proposito di viaggio e di autobus, parliamo anche di questo oggi, caro Carlo. Infatti, ma in un altro il modo. Il raccordo era perfetto. Era allora, tutto voluto. Noi ci siamo sentiti tutta la settimana. Ieri in realtà stato... il mio post portava esattamente ai mezzi pubblici per questo motivo. Ieri c'è stato lo sciopero della funzione pubblica e lo sciopero dei trasporti per l'ennesima volta. Insomma, ormai è una routine, la gente si arrabbia, non ne può più. Però insomma, si tratta anche di lavoratori che sono senza contratto da sette anni. Non entriamo nel merito di questa vicenda, ma vi chiediamo per una volta almeno di raccontarci una cosa bella legata ai mezzi pubblici, all'autobus, al treno, o buffa, qualcosa di strano, che cioè, quella volta che veramente sull'autobus avete visto la ragazza dei vostri sogni, poi è diventata magari anche la fidanzata. Diciamo che dire una volta ho preso un autobus e è arrivato 14 minuti in ritardo non è una notizia, ecco. No, ecco. Oppure non so, avete perso un treno, ne avete preso un altro e avete parlato con qualcuno sopra questo treno e che vi ha dato un lavoro, perché magari parlando capita e magari sull'altro questo. Treno invece avreste vinto la Superenalotto, quindi chi lo sa. Però non lo puoi sapere. 800 24 00 24, anche oggi il racconto più originale, più bello, a nostro insindacabile giudizio, si porta a casa i biglietti, in questo caso della mostra del Fai a Villa Panza a Varese, a Estesis, all'origine delle sensazioni. 800 24 00 24, direi che possiamo cominciare a parlare di bonus bebè. Sono tanto felice perché ritorno da te, la mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, sono tanto felice viver lontano per te. Mamma, solo per te la mia canzone. Bocelli. E poi questa parola mamma, senti come suona bene. Ho i lacrimoni, perdonami, non mi potete vedere, ma è ovvio che abbia i lacrimoni. Così la mattina a tradimento, mamma. Vabbè. Allora, abbiamo convocato per parlare di questo bonus bebè Manuela Campitelli, ideatrice del blog genitoriprecari.it. Buongiorno. Buongiorno. Ha un blog anche sul Fatto Quotidiano, collabora col Fatto Quotidiano e ha scritto una lettera a Matteo Renzi dicendo: caro Matteo, i bonus da 80 euro, gli 80 euro te li puoi tenere, perché in effetti non servono a un tubo. Devo dire che insomma noi cerchiamo sempre il lato positivo delle notizie, delle cose che arrivano, però qua in effetti sembra davvero, come dire, questi 80 euro non sono risolutivi per chi per esempio non può pagarsi o permettersi l'asilo nido che costa 3, 4, 500 euro. Chiarita la nostra posizione, Manuela, perché hai scritto questa lettera? Ma io ho scritto questa lettera perché mi sono posta due domande. La prima domanda è se 80 euro in più fanno comodo a una famiglia, e per come siamo messi decisamente sì, è in dubbio. L'altra domanda parola però più di sostanza, ed è se sono queste le riforme sociali che noi ci aspettiamo per il nostro paese, la domanda è no. Quindi andando oltre a quello che ci serve per la sopravvivenza e nella quotidianità, guardando invece a lungo termine, quindi a quello che ci serve in realtà realmente per sopravvivere, quello che tutti i genitori ma anche tutti i cittadini auspicano sono riforme sociali sostanziali. Per esempio qualcosa che sia, che suoni come aiutare i comuni a coprire le spese per i posti mancanti negli asili nido, la dico io, ho una bambina di 3 anni, so cosa vuol dire iscriverla all'asilo nido, anche se hai il soccorso diciamo pubblico, però devi pagare, se poi non riesci ad entrare e devi pagartelo tutto, quanto può costare un asilo nido, Manuela? Ma può costare dai 300 ai 400 euro, in realtà poi la partita degli asili nido è ancora più paradossale, perché basterebbe cambiare un presupposto. Il presupposto delle graduatorie degli asili nido è che più sei disoccupato, meno punti hai in graduatoria, e questo perché la logica delle graduatorie si basa sul fatto che è leggermente datata, e si basa sul fatto che se una persona, un genitore aveva scelto di stare a casa era perché appunto era una libera scelta. Sì, voleva accudire il bambino, invece oggi non è più una scelta. Esatto, negli anni 50 questo. Cioè è molto diverso se in realtà uno è a casa perché non ha un lavoro e quindi non solo non ha diciamo la possibilità di lavorare e nemmeno tanto di accudire i propri figli, giustamente. Anche perché oggi succede quasi sempre così, tra l'altro la precarietà è un altro fattore aggravante, perché la precarietà è soltanto una parentesi tra un momento di disoccupazione ad un altro, e quindi capita, come ad esempio nel mio caso, con un figlio di 4 anni che non è mai stato preso né al nido né alla materna, perché con la precarietà mi capitava quasi proprio come uno scherzo del destino di dover compilare la domanda sempre quando ero disoccupata. Dopo un mese trovavo lavoro e quindi sostanzialmente il mio stipendio andava per asili nido e quant'altro. Serviva giusto per mantenere quello. Manuela, tu che anche attraverso il tuo blog, sicuramente di storie di genitori, genitoriprecari.it si chiama il sito, ne hai raccolte tante. E cosa avresti fatto? Non dico con i 200 milioni di euro messi a copertura del bonus bebè, che non sono moltissimi in legge di stabilità. Io ho detto un provvedimento che costa poco e rende molto in termini di immagini, questa volta sì. Magari anche con qualche euro in più, una misura che invece avrebbe davvero aiutato le neomamme, secondo te? Allora, faccio due esempi che guardano all'Europa. Uno è la Germania, dove sostanzialmente ad agosto è stata approvata una delle riforme sociali più drastiche, che prevede un posto all'asilo nido per ogni nuovo nato, con possibilità per i genitori che sono rimasti fuori dalle graduatorie di fare causa comune di residenza. Qui succederebbe il panico, tutti farebbero causa perché sarebbero tutti fuori. Però ecco, l'impegno l'avevamo visto anche noi, questa notizia importante del governo tedesco, quello di dare un posto in un asilo per ogni nuovo nato. Ma poi per ogni nuovo nato, quindi vuol dire che c'è una prospettiva proprio che guarda al futuro, cioè questa è la riforma, penso, anche culturale più importante. E poi un altro esempio è la Francia. In Francia ci sono queste cosiddette tage a domicilio, cioè le Tagesmutter, che derivano sempre dalla Germania, che sono una valida alternativa pubblica agli asili nido per i bambini più piccoli, quindi i genitori li possono portare da queste tage a domicilio che guardano 2 o 3 bambini insieme, ma sono comunque fanno capo comunque al municipio di residenza queste tate. In Italia e nel Lazio si era provata a sperimentarla per un anno, dopodiché non è stata più rinnovata questa pratica. Sì, si tratta di esperimenti, qualcosa del genere c'è anche a Milano, ne ho sentito parlare. Manuela, resta con noi se vuoi. Adesso salutiamo anche Riccarda Zezza, buongiorno. Buongiorno. Che è cofondatrice di Piano C a Milano, uno spazio di co-working, co-baby, un posto dove le mamme ma anche i papà possono andare per lavorare, chi fa un certo tipo di lavori legati ai servizi, legati a, insomma, ad una postazione di lavoro all'interno di un ufficio, dove c'è spazio anche per tenere i bambini, per intrattenerli, quindi una concezione diciamo moderna di welfare privato, ma che cerca di venire incontro alle esigenze delle famiglie. Prima di parlare con te, Riccarda, facciamo una pausa per il traffico e poi ti voglio chiedere cosa con 80 euro, insomma, cosa si può, quale servizio si può avere lì da voi, se insomma si riesce a fare qualcosa oppure se si resta all'asciutto. Riccarda, tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, come si può fare, di nuovo in diretta. E siccome insomma noi cerchiamo sempre il lato positivo della faccenda, vogliamo parlare con chi ha costruito a Milano. Da quanto tempo esiste Piano C a Milano, Riccarda? Riccarda Zezza? Caduta la linea? Che è successo? Regia? Sono arrivati gli 80 euro forse. È arrivata la busta. A far spesa. Esatto. È caduta la linea, ditemi, è caduta. Ah, peccato. Allora, stavamo parlando, adesso recuperiamo la linea con chi ha fondato a Milano questo spazio di co-working, co-baby. Abbiamo già detto, un posto dove insomma le neomamme possono andare a lavorare con un computer, c'è una scrivania, un computer, e a fianco c'è anche un asilo, ti tengono i bambini per un'ora, due ore, quello di cui hai bisogno, e paghi il servizio anche a ora o fai degli abbonamenti, sono delle tariffe particolari. Una bella iniziativa. Infatti noi eravamo, diciamo, curiosi di capire se con questi famosi 80 euro che Renzi intende dare alle neomamme, se, cioè, che cosa ci si porta a casa. Almeno un abbonamentino, che ne so, mensile per qualche ora alla mattina. Ecco Riccarda Zezza, l'abbiamo recuperata. Buongiorno. Buongiorno. Di nuovo, insomma, noi vogliamo vedere il lato positivo della faccenda. Voi siete una bella esperienza di aiuto alle neomamme. Da quanto tempo siete a Milano intanto? Che operate? Da 2 anni. E come sta andando? Sta andando molto bene, siamo molto contenti, siamo soprattutto contenti perché altri spazi come il nostro hanno aperto in Italia, e questa è una bellissima notizia. Quanto costa avere il servizio da voi? Per esempio, per coprire, che ne so, la mattina potendo lavorare nel vostro spazio e avendo a fianco qualcuno che ti tiene il bimbo? I servizi noi li abbiamo separatamente, perché abbiamo molti genitori o persone che non usano la parte dei bambini, quindi un'ora di co-baby costa intorno ai 5 euro, mentre invece una giornata da noi circa 10-15 euro a seconda di quante giornate si comprano. Ah, perché, scusa, non tutti diciamo usano i vostri servizi perché hanno dei figli piccoli e non sanno come accudirli? No, moltissime persone vanno per usare il co-working, poi magari qualche ora al giorno, quando il pomeriggio hanno delle riunioni o corsi di formazione, usano il co-baby. Se hanno anche il bambino dietro, ne approfittano. Si può fare anche un abbonamento, cioè con 80 euro, quelli che arriveranno in tasca alle neomamme, mettiamo una neomamma milanese che vuole approfittare di Piano C e dice: con questi 80 euro faccio un abbonamento e cosa porto a casa? Allora, abbiamo fatto una riflessione anche con i nostri partner che vanno da Matera a Bologna, a Mestre, a Roma, quindi tanto per dire che comunque non è sempre solo per le mamme milanesi o per i papà milanesi. Giusto, ricordarlo. E secondo noi può essere bello avere, sicuramente si può coprire un giorno a settimana, però arrivare in uno spazio come il nostro vuol dire non solo avere uno spazio dove lavorare, dove qualcuno ti tiene il bambino, quindi tu stai lavorando e il bambino lo tiene una giocatrice, ma anche rimanere comunque in un ambiente dove c'è un'atmosfera professionale, dove si fa formazione. Certo. Quindi per le neomamme, che sappiamo che una su tre non riesce ad entrare nel mondo del lavoro, e questo è il problema strutturale. C'è questo valore aggiunto, naturalmente, sì, dello spazio, diciamo, di lavoro in comune, dove si possono aumentare le conoscenze, i contatti, e quindi, diciamo, portare a casa anche questo, oltre, diciamo, a un posto fisico dove ti tengono il bambino e dove puoi lavorare. Insomma, un valore aggiunto, questo in tutti gli spazi di co-working, è importante ricordarlo. Che ne pensi, Riccarda Zezza, però, della misura del governo Renzi? Si poteva fare di diversamente, o comunque un aiuto economico così a mo' di una tantum, per quanto in 3 anni, quindi in effetti non è pochissimo, può dare una mano per quella che è la tua esperienza di, diciamo, operatrice di questo settore? Allora, io sono molto d'accordo con la signora che ha parlato prima, Manuela, e dunque la buona notizia è che se ne parla, se non altro abbiamo acceso i riflettori su un tema che è un problema enorme in Italia. Sembra veramente un po' un abdicare al ruolo del governo, perché è una tantum che non si sa bene in che visione, in che contesto si inserisca. Sarebbe bello sapere che questo è un pezzo di una visione molto più ampia, che poi prevede delle riforme strutturali, perché se io do i miei 80 euro al governo ogni mese di tasse, è perché mi aspetto che loro con questi soldi, mettendoli tutti insieme, riescano a fare qualcosa che ha un impatto maggiore di quello che posso fare io singolarmente ogni mese con 80 euro. Va bene, io ringrazio sia Riccarda Zezza di Piano C a Milano, hai sentito, l'esperienza c'è anche in altre città italiane piano piano, e poi spazi co-working così ce ne sono anche diversi in altre zone, e anche Manuela Campitelli del blog genitoriprecari.it. Grazie per essere state con noi. Adesso ascoltatori, vediamo un po' che ne pensano. di questo argomento. Gabardini, sì. Sì, signore. No, pensavo si fosse di nuovo rotto il microfono. Microfono. La settimana scorsa abbiamo avuto problemi. Tutto che funziona. No, ero molto incuriosito da questa questione del co-working, che mi sembra bello che uno va a lavorare in un posto dove ci sono anche altre persone che lavorano. Sì, insieme e poi il figlio si può tenere lì vicino. Luigi da Imperia, buongiorno. Buongiorno. Mi scusi se mi concedete più di 15 secondi. Come 30, prego. Io volevo dire degli 80 euro, intanto che mi sembra una cosa ridicola, mi sembra uno spot dell'epoca fascista quando dicevano figli per la patria e cose del genere. Beh, mi sembra un po' poco decidere di fare un figlio per 80 euro al mese, insomma, mi sembra che uno deve essere messo veramente male. Non è questione di figli, ma a me mi suonano così questi slogan. E poi volevo dire un'altra cosa veloce. Sì. Mentre si parla, lì dicevano, Tito Livio diceva, mentre a Roma si chiacchiera Sagunto e Spugnata. Di tutte queste banalità, nessuno si accorge della vera peste peggiore di quella del 300, che del cimo mezza Europa, che è in Italia, cioè c'è queste grandi opere di cui gli italiani dormono, come diceva lì nel Gattopardo il principe, cioè infinite grandi opere che costano inutili, inutilissime, che costano miliardi. Ma scusi, citazioni a parte, di che cosa stiamo parlando? Sto parlando di tutte le grandi inutili, Terzo Valico, TAV, Expo, Mose di Venezia, corruzione di miliardi dove nessuno è punito e si continua a farne. Va bene, progetto... Luigi, però questo non è proprio l'argomento di oggi. Grazie intanto per aver detto la sua. Paolo dalla provincia di Monza e Brianza, siamo quasi in chiusura, un minuto. Paolo. Sì, buongiorno, ciao. Buongiorno. No, niente, siccome prima avevate parlato di cose... esperienze positive sui mezzi. Sì, sì. Aspettiamo i vostri racconti, certo. E niente, io quando ero giovane prendevo il pullman alla sera per entrare in caserma. Ho conosciuto una ragazza, 27 anni dopo siamo ancora marito e moglie. Ma che meraviglia! E non dire quando ero giovane, dai, sei ancora giovane, Paolo. E soprattutto dici quale autobus, che così magari lo prendiamo anche noi. Anche noi. Dobbiamo fermarci, grazie Paolo dalla provincia di Monza e Brianza, bellissimo il racconto, ne aspettiamo altri, cose belle ma anche assurde che vi sono capitate sui mezzi pubblici, dopo il GR. Si può fare, cronache da un paese migliore. I'm waking up to ash and dust, I wipe my brow and I sweat my rust, I'm breathing in the chemicals. Con questa Imagine Dragons degli Radioactive, la canzone che ci è stata segnalata da Antonella Pironi da Torino, la nostra ascoltatrice, continuate a mandarci il vostro Si può fare in musica anche adesso, subito, sui nostri account Twitter per esempio del programma @ Si può fare 24, siamo anche su Facebook Si può fare _ Radio 24, subito postate vostre canzoni, il vostro Si può fare in musica, oppure sui nostri account personali di Twitter, il mio è @CarloGabardini, Salvini. E il mio at Ale Maurizi. Allora, andiamo con un po' di ascoltatori all'800240024 per commentare le buone notizie di oggi e anche per il nostro gioco. Vi chiediamo, insomma, visto che ieri c'è stato l'ennesimo sciopero sui mezzi di trasporto, un momento bello, particolare o anche assurdo che vi è capitato di vivere sui mezzi di trasporto. Non per forza durante uno sciopero, diciamo. No, non per forza. E non per forza durante un ritardo. E non per forza, però comunque sui mezzi pubblici. Quindi sui mezzi pubblici. Difficile. Una bella storia sui mezzi pubblici, vissuta da voi. Il racconto più originale e più bello vince i biglietti per la mostra a Villa Panza del FAI a Estesis. Abbiamo Daniele che ci chiama dalla provincia di Torino. Intanto, buongiorno. Buongiorno. Daniele non c'è, non è pronto. È su un mezzo pubblico, è in ritardo forse. Alessandro da Genova. Sì, ciao, sono Alessandro. Prego. Dunque, io volevo intervenire sugli 80 euro, sul bonus 80 euro per le neomamme. Sì. Io 3 anni fa sono diventato papà di 2 bellissimi bimbi, sono gemelli. E io e mia moglie siamo dipendenti, lavoriamo e quindi abbiamo dovuto cercare un asilo nido. Ti assicuro, non è che siamo benestanti, però per il comune di Genova eravamo oltre i parametri ISE, oltretutto quelli comunali erano distanti, l'abbiamo portati da un asilo nido privato e alla fine ci è costato 900 euro al mese, che nel mio caso sono i 3/4 di uno dei 2 stipendi. Non vi hanno fatto uno sconto per... E anche io non abbiamo pagato l'iscrizione di uno dei 2 e poi sul secondo ci facevano il 5, il primo anno il 10 e il secondo anno il 5%. Però poi sono sempre stati bene, quindi mangiavano tutti i giorni, se meno male, però la spesa era quella. Quindi Alessandro, lei dice, okay, con questi 80 euro che ci faccio? No, io quello che penso è, non so, io vivo in un'azienda, cioè lavoro in un'azienda grande, però azienda grande oppure grossi, sì, centri dove è, secondo me bisognerebbe obbligare le aziende di un certo livello a organizzare asili nido aziendali, che non credo che avrebbero un costo enorme né per l'azienda, perché nel bilancio complessivo obbligare magari è più difficile, incentivare in qualche modo potrebbe essere, se ne è parlato molto, sì, una potrebbe soluzione, essere una cosa da fare. Gli 80 euro onestamente mi sembrano un progetto che mi ricorda Lauro. E ho detto tutto. Perché... una scarpa prima e una dopo il voto. Va bene, Alessandro. Ma chi ha i figli gemelli ne prende 160 o c'è anche lì uno sconto e quindi ne prende un po' meno? No, non lo so, perché i miei hanno più di 3 anni, quindi ormai è fuori. E non credo che Alessandro voglia fare di nuovo altri 2 gemelli per prendere il bonus. Grazie, Alessandro. Grazie mille. Buona giornata. Andiamo con Laura che ci chiama da Milano. Ciao. Ciao. Io volevo raccontare un fatto che però era successo a Roma, sì? Sulla famosa linea del 64, linea incriminata perché praticamente è la linea che va dalla stazione a San Pietro, quindi sempre piena di turisti e anche piena di borseggiatori. E infatti è famosa anche... Ma borseggiatori italiani o turisti anche loro? No, borseggiatori italiani. Ah, perfetto. No, era una stupidata, chiedo scusa. Dici, racconta. Praticamente, siccome a me una volta era successo, insomma, un tentativo di borseggio, allora ogni volta che prendevo questo pullman faccio attenzione. E se posso, se vedo dei turisti stranieri e mi accorgo di qualche scena strana, li avviso, insomma. In realtà una volta mi era successo, ho visto 2 uomini praticamente quasi attaccati insieme, ho detto, questo sarà un tentativo di borseggio. In realtà non era un tentativo di borseggio, era ben altro. Un tentativo di abbordaggio. O stavano già insieme? No, non lo so, perché poi mi è successo già un'altra volta. Evidentemente c'è un gioco di sguardi per cui si capiscono. Ed erano praticamente 2 omosessuali che si stavano masturbando, cioè uno stava masturbando. Ah, addirittura? Però la cosa... Sì, in pieno giorno, ma col pullman mezzo vuoto. Ma noi non c'eravamo arrivati, sono le 9 del mattino di sabato e non potevamo arrivarci. Io l'ho detto che era un po' a luci rosse questa cosa. Comunque la cosa buffa è che quando si sono accorti, chiaramente hanno smesso, ma il tipo poi è rimasto con l'ammenicolo di fuori per di secondo. Beh, non è stata una bella scena, Laura. Questa è una scena che classificherei tra le scene a cui uno non vorrebbe assistere, anzi, secondo me. No, esatto. Però la morale è, diciamo, non tutti gli uomini che si toccano sono borseggiatori, è questo? Sì. No, infatti, ma la cosa, cioè, l'altro risvolto è che la persona che poi è scesa, che è rimasta praticamente con l'ammenicolo di fuori, aveva l'abito, aveva l'impermeabile, quello così, no? No, quello che si apre, l'abito talare, quello laico che usano insomma, i religiosi. Ma ascoltami, questa storia sta diventando sempre più incredibile e terribile. Scusaci, non stiamo capendo. Secondo me sta lavorando di fantasia, Laura. Vabbè, comunque. No, no, assolutamente, guarda, è tutto vero. È tutto vero. Ma si trattava di un prete o no, Laura? Alla fine. Sì, sì, era un prete, cioè quello che praticamente stava godendo alla grande era un prete. Vabbè, adesso non scendiamo in particolare. Laura, questa è la scena sicuramente più assurda, credo che, non so se meriterà il premio o no, se misurassimo in base alla stranezza e all'assurdità della cosa, beh, insomma. Andiamo, cosa facciamo? Angelo, velocemente, prima del traffico. Angelo, da Bergamo. Grazie, buona giornata, perché mi avete fatto ritornare 35 anni fa, quando ero militare a Savona, che poi da Savona mi hanno mandato a Napoli, a San Giorgio Cremano, dove là ho fatto il corso di marconista. Dopo 25 giorni si accorgono che io non dovevo stare lì, ma bensì a Treviso. Quindi allora ha cambiato di nuovo, Savona, Napoli, Treviso. Sì. Poi quando sul tratto che arrivo a Milano e il treno si ferma a Vidalengo, Vidalengo, guardo a 400 metri, vedo casa mia. Erano esattamente 3 mesi che non andavo a casa. È sceso dal treno e è andato a casa. Sono preso sul mio zaino, cosa, sono andato a casa. Sono stato a casa 3 giorni, poi dopo sono rientrato. E in caserma erano tutti ad aspettarmi, ma dov'è? Beh, ho preso 5 giorni di... Hai disertato, di diciamo, punizione. Per 3 giorni, tecnicamente, giusto? Sì, sì, 3 giorni sono stato. E la punizione, Angelo, è stata 5 giorni di? In caserma, non potevo uscire. Non è andata neanche malissimo. No, perché tecnicamente ha ragione Gabardini, era una diserzione. Insomma, non hai resistito alla tentazione, vedendo casa vicino, sei sceso e sei andato. E questo è il tuo ricordo sul treno, la stazione era Villa? No, Vidalengo. Tra Treviglio e Romano. Ah, poi erano anche 3 mesi che non vedevo l'amorosa. Certo, questo spiega tutto. Angelo, dalla provincia di Bergamo, grazie. Per quanto mi riguarda, è al top adesso della classifica dei racconti più originali. Cioè, uno che si butta dal treno in corsa per andare a casa con lo zaino da militare perché non vede l'amorosa a 3 anni è fantastico. Anche perché stiamo cercando di dimenticare il prete della storia precedente. Sì, ecco, esatto. 800 24 00 24, traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Piacere, Luigi delle Bicocche. Sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Da giovane il mio mito era l'attore Dennis Hopper, che in Easy Rider girava il mondo a bordo di un chopper. Invece io passo la notte in un bar karaoke. Se vuoi mi trovi lì, tentato dal videopoker. Ma il conto langue, quella macchina vuole il mio sangue. Un soggetto perfetto per Bram Stoker. Tu, che ne sai della vita degli operai? Io stringo sulle spese, goodbye, ma ce l'hai. Non ho salvata Nai da sceicco del Dubai. E mi verrebbe da devolvere l'8 per 1000 a Snai. Io sono il pane per gli usurai, ma li respingo. Non faccio dal pacino, non mi faccio di pacinco. Non gratto, non vinco, non trinco nelle sale bingo. Man mano mi convinco che io sono un eroe. Perché lotto tutte le ore, sono un eroe. Perché combatto per la pensione, sono un eroe. Perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe. Perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe. Straordinario tutte le sere, sono un eroe. E te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Eroe di Caparezza, è un po' un pugno nello stomaco se si ascolta il testo di questa canzone, però Caparezza è sempre bello da ascoltare anche così allegramente di sabato mattina. Parliamo in realtà di gioco d'azzardo. Si intuiva da, almeno dall'8 per 1000 alla SNAI nel testo di... C'era qualche indicazione. Allora, la buona notizia da cui partiamo è questa: la lotta al gioco d'azzardo patologico, e questo diciamo è il problema di cui cerchiamo di parlare spesso anche in questa trasmissione, ha messo a segno un punto importante, perché c'è un tavolo comune per la prima volta tra gli imprenditori che gestiscono le macchinette, soprattutto le slot machine, aderenti al Sistema Gioco Italia, aderente a sua volta a Confindustria, e mettiamoci in gioco una campagna nazionale contro i rischi del gioco d'azzardo patologico nel nostro paese, a cui aderiscono i sindacati CGIL, CISL, UIL, l'ACLI, l'ARCI, l'ADUSBEF, ma anche Libera, il Gruppo Abele e altre associazioni. Ne è nato un protocollo per mettere in campo, insomma, delle azioni. Ne parliamo con Massimo Passamonti, che è presidente proprio di Sistema Gioco Italia. Buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Allora, già di per sé che ci sia un tavolo tra le associazioni che, insomma, hanno messo nel mirino il gioco d'azzardo. Un tavolo patologico. Da gioco, si può dire che c'è un tavolo da gioco almeno? Questa andava fatta, questa battuta, per forza. Vogliamo di fare cose più serie. No, esatto. Chiedo scusa, sono lo stupido dei due, ma adesso mi zittisco. Già che ci sia questo tavolo, non da gioco, è una notizia di per sé importante, perché insomma, già che si discuta tra imprenditori che gestiscono il gioco d'azzardo in Italia, però so che voi non volete usare questa espressione, già questo è un punto di polemica, e le associazioni che invece sono preoccupate per gli effetti patologici, è una cosa importante. Si tratta di un primo passo. Cosa avete messo nero su bianco, Passamonti? Abbiamo messo nero su bianco, arrivando a mettere nero su bianco dopo un percorso che, voglio ricordare, è durato più di quasi due anni, quasi 18 mesi, insomma, in cui il confronto tra Confindustria Sistema Giochi Italia e gli amici di Mettiamoci in Gioco è stato un confronto serrato, fatto di scambi di opinione da presupposti assolutamente diversi, ma convergenti rispetto alla necessità di garantire un perimetro di sicurezza, di sicurezza sociale e di sicurezza soprattutto, sì, anche dal punto di vista dei luoghi, per tutti quelli che liberamente decidono di passare una parte del loro tempo con quelle attività di gioco. Questo è molto importante, perché dal punto di vista diciamo così, degli steccati ideologici che hanno contraddistinto, sì, e mi dispiace dirlo, continuano a contraddistinguere questo l'atteggiamento nei confronti del gioco, prova ne è l'aggressione che stanno subendo proprio gli amici di Mettiamoci in Gioco da parte di altre associazioni per aver firmato questo protocollo. È un limite che ha condizionato molto le azioni che si potevano fare già da tempo per rafforzare appunto il perimetro di sicurezza entro i quali si svolge l'offerta di gioco legale nel nostro paese. Questo è stato il primo punto, cioè sì, rappresentare comunemente che il problema del gioco andava declinato rispetto ad alcune criticità che emergevano e sui quali si è convenuto, e che sono la lotta all'illegalità, il problema della pubblicità e della promozione dell'attività di gioco, il divieto di giochi minori e la lotta al gioco patologico. Voglio ricordare, per chiudere questa domanda, che queste cose qui è stato possibile, questi problemi è stato possibile affrontarli e declinarli e mettersi insieme attorno a un tavolo per decidere cosa fare, perché c'è il gioco legale nel nostro paese. 15 anni fa, senza gioco legale, no, tutte anche le canzoni di Cavaluzza che abbiamo sentito all'inizio potevano essere moltiplicate per 100.000, sì, perché il problema non era assolutamente evidente. Il gioco legale rende evidente queste criticità. Certo, adesso c'è il gioco legale, rimane in alcune zone anche il gioco illegale, però anche all'interno del perimetro del gioco legale, noi sappiamo, ce lo dicono i baristi, ce lo dicono i medici che hanno in cura persone ludopatiche o anche semplicemente le banche che non fanno più i fidi a chi ha speso tutto, che c'è un problema di gioco patologico. In particolare anche su questo aspetto voi avete uno dei punti del protocollo, Passamonti si occupa anche proprio di questo, però concretamente come si fa a mettere un limite a questo, per esempio anche nei confronti dei minori, perché ci sono comuni che stanno facendo delle ordinanze, delle leggi per allontanare per esempio i luoghi del gioco dalle scuole. Su questo è una cosa su cui siete d'accordo? Siete favorevoli? Può essere una strada a percorrere? Guardi molto, molto serenamente. Io sono assolutamente favorevole a considerare in modo critico e in modo anche severo tutte le strade che possono portare ad avere un'offerta di gioco più sicura. I distanziometri rispetto ai luoghi cosiddetti sensibili, introdotti con il Balduzzi credo 2-3 anni fa, sono, me lo lasci dire, una stupidaggine ipocrita. Perché nel momento in cui oggi, nel 2014 e sempre di più, si può giocare con i palmari, sì, no? Lei gioca dentro il confessionale della chiesa, se sì, vuole. Però quella è, diciamo, è una cosa privata che uno fa o non fa, ma mettere in un luogo pubblico come un bar è una scelta, no? Esattamente. Allora, detto questo, no, perché le leggi che lei ricordava sono leggi che non fanno il ragionamento sopraffino che sta facendo lei, dicono solo e semplicemente espelliamo, no, sì, il gioco con un assolutismo metrico, no, che porta il gioco legale a poter essere esercitato in montagna, dopodiché le città diventeranno sacche di illegalità per l'offerta di gioco. Perché la domanda non si interrompe perché tu metti il distanziometro. Allora, quello che si può fare per rispondere alla sua domanda, sì, è mettere in campo tutta una serie di meccanismi che le tecnologie ci mettono a disposizione, che possono consentire assolutamente, primo, un controllo quasi assoluto del divieto di gioco ai minori. Primo perché tra l'altro nei giochi e nelle sale nella maggior parte va rafforzato ancora di più, certamente sì, e l'intermediazione di una persona, perché come nei tabacchi, come negli alcolici, così come nel gioco, di fatto c'è una persona che ti intermedia e vede se sei un minore, no? Questo vale per molte attività di gioco. Pensi, in modo indistinto, le leggi regionali e comunali parlano di sale bingo, sale scommesse, tutto questo. Ma la sala bingo e sale scommesse, c'è una persona all'ingresso che verifica l'identità di chi entra, no? Sa di chi entra, emette un biglietto, c'è un rapporto, no? Quindi si vuole distanziarli da alcuni luoghi sensibili comunque? Beh, definiamo intanto quali sono i luoghi sensibili. Ci sono delle ordinanze comunali che hanno messo luoghi sensibili in bancomat. Hanno messo luoghi sensibili, che ne so io. Beh, però una scelta andrà pur fatta, perché se rimane tutto com'è. Io, sicuramente sì. Guardi, voglio dire, ne approfitto di questa trasmissione. Noi, anche perché voglio dire, Radio 24, ne abbiamo già parlato altre volte. Confindustria nel maggio 2013, compiendo il lavoro finito a dicembre 2012, ha presentato un piano che abbiamo definito piano regolatore per affrontare una regolazione del mercato del gioco legale teso al consolidamento del mercato, che significa restrizione, restringimento, rafforzamento dei requisiti di qualità per l'offerta di gioco e riduzione dell'offerta di gioco sul territorio. L'abbiamo perché, fatto noi. Esatto, ma questo seria, lo abbiamo detto a suo tempo, Passamonti, perché in effetti a me quello che fa impressione, lo chiedo anche a lei, è questo: cioè nelle nostre città noi vediamo chiudere cinema, teatri, librerie, a volte anche ristoranti, bar, e abbiamo visto in questi anni proliferare macchinette da gioco e slot house moltissime in tutti i quartieri delle città. Questo è un po' impressionante. Naturalmente dietro c'è un'economia, lei ce lo insegna, ci siete voi operatori, però c'è un'economia anche dietro i cinema, dietro alle librerie che chiudono. Allora io mi domando se non sia lecito per un comune decidere di incentivare o disincentivare una piuttosto che l'altra attività. Va da sé che assolutamente sì. Però assolutamente sì, tant'è che esistono gli strumenti. Il Parlamento ha approvato l'anno scorso il disegno di legge di delega fiscale che all'articolo 14 rega i principi di riforma del sistema del gioco. Noi abbiamo sempre detto di essere favorevoli. In questo paese, anche quando si fanno cose fatte bene, poi si dimenticano. Sono mesi che noi stiamo chiedendo di attuare quella delega. In quella delega esistono tutte le condizioni e tutti i percorsi per arrivare a risolvere questi problemi. Il Comune può fare queste scelte? Naturalmente sì. Ma dal punto di vista, diciamo così, della perimetrazione di un'offerta di gioco legale, lo Stato italiano e tutti quanti noi dobbiamo fare una scelta, dire se vogliamo un gioco regolato da una concessione dello Stato, che quindi rende questo sicuro, trasparente, sì, dove si può intervenire, o se non vogliamo questo e torniamo, chiudiamo e torniamo a 20 anni fa. No, con chiudiamo non credo, anche perché lei mi insegna che l'erario fa conto di cifre crescenti sul prelievo fiscale. Tra l'altro questa stessa legge di stabilità prevede 1 miliardo di maggiori introiti per un cambio tra l'altro delle regole di payout. Su questo qual è la vostra opinione? Ce lo vuol dire in un minuto? Intanto andrebbe letto bene, adesso lo stiamo leggendo, ma voglio dire, mi pare di aver capito che il miliardo viene giustamente da una norma che prevede un inasprimento della lotta all'offerta illegale, fortunatamente, perché nel nostro paese, come lei accennava anche prima, nonostante si sia sviluppato un mercato legale molto importante, che ha intercettato una domanda, perché la domanda c'era, no, e non sarebbe stata intercettata senza regole di concessione pubblica, continua ad esserci un'offerta di gioco illegale molto forte. Però ci sono anche il cambio di regole di pagamento, c'è anche quello? C'è un'altra norma che dice, appunto, prevede, no, un cambio di pagamento sul payout. Voglio ricordare che il payout è a danno del giocatore, e poi vediamo come verrà costruita, ma che mi risulta non si aggiunge al miliardo previsto per la norma di contrasto al gioco illegale. Quindi mi pare di capire che è una norma che fa una previsione, e su questa voglio così sommessamente ricordare che quella norma lì, allo stato attuale, ogni riduzione di payout farà sì che ci sarà una, quindi, di restituzione in vincita ai giocatori, per intenderci. Sì, è un modo di infierire sui giocatori, via, questo è chiaro. Ma sarà incidente negativamente sulla raccolta. quindi sarà il risultato che farà, sarà quello di avere meno entrate erariali, non più entrate erariali. Questo è il punto. Perché l'anno se la gente non vince gioca meno. Certo, voglio ricordare, l'anno scorso, vedo, ne abbiamo parlato anche in trasmissione, feci una previsione e purtroppo per chi la pensava diversamente l'ho indovinata. Nella precedente legge di stabilità si cifrò una roba di 150 milioni di euro per coprire i costi delle missioni militari all'estero, con un aumento del payout anche allora sulle slot dello 0,5%. No? Quell'aumento di payout ha prodotto un mancato introito erariale superiore ai 300 milioni. Va bene, insomma, poi su questa questione vedremo quale sarà la versione definitiva della legge di stabilità, anche per quanto riguarda le slot machine e il gioco. Intanto grazie Massimo Passamonti di Sistema Gioco Italia, perché grazie per essere stato con noi, perché comunque la buona notizia, al punto da cui siamo partiti, è questo tavolo, ci si mette a discutere associazioni e imprenditori su come limitare il gioco dei minori e il gioco patologico. Sono già due punti importanti da cui ripartire. 800 24 00 24. Ci fermiamo e torniamo tra pochissimo. A dopo. Sentirsi con un papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Eccoci qua di nuovo in diretta. Andiamo con gli ascoltatori. Veronica da Pordenone, buongiorno. Ah sì, buongiorno. Buongiorno. Salve, buongiorno. Dici tutto, ci dica. Sì, allora, in pratica è successo questo. Mi trovavo sul treno, sì. Stavo andando a Venezia e a un certo punto ho notato che c'era una famiglia seduta vicino a me, una famigliola, penso siano stati cinesi, e avevano delle borse. Pronto? Sì, noi ci siamo. Sì. Ok, in pratica vedevo che avevano delle borse e a un certo punto però abbiamo notato, ora siamo un'amica, ho notato che da una borsa è uscita fuori un'anguilla e questa anguilla ha iniziato proprio a girare sul treno. Ah, è uscita, sì, è scappata così. Fuori dal ma sacchetto. Fuori, ma lunga quanto? Ah beh, ma insomma era un'anguilla abbastanza grande. Non me ne intendo di anguille, mi scusi. Ma cos'era, Natale? Si stava preparando il capitone, no? No, era l'anno scorso, quindi beh, Natale quindi c'è tutti gli anni comunque, anche se era l'anno scorso. Quindi è la cosa più assurda che le è capitata su un treno, è una famiglia di cinesi che portava anguille. Portava anguille vive, libere, in questo sacchetto pieno d'acqua. E l'anguilla in giro ha creato scompiglio? Cioè, c'erano donne che scappavano, diciamo, schifate? Sì, certo. Diciamo che insomma si è un po' l'ambiente, si è un po' cambiato. Si è un po' animato. Beh, un po' vabbè, l'acqua, un po' la puzza anche di pesce. Beh, insomma, è una buona notizia, perché vuol dire che comunque nei ristoranti cinesi si mangiano anguille freschissime, perché anguille loro le trasportano fresche. Vive. Va bene. Sì, diciamo che è un lato positivo. Esatto. Grazie mille. Sentiamo un altro ascoltatore, sempre credo per il gioco. Paolo dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Parlavo per il viaggio più assurdo che mi è successo. Sì, prego. Allora, sono andato nel 99, sono andato in Thailandia, abbiamo fatto un tour in autobus e già nelle partenze per il ritorno praticamente abbiamo boccato l'autostrada in contromano. Aia. E lì abbiamo iniziato male. Vabbè. Ci credo. Ma vi siete anche fermati o avete proseguito? No, praticamente dovevo uscire un bivio e invece di fare tutto il giro nell'autostrada, fare le rotonde, lui ha preso in contromano, ha fatto 200 metri in contromano e poi è uscito dal bivio comodamente. Ma siete andati in pullman dall'Italia, in Thailandia, no? No, abbiamo fatto praticamente da una spiaggia all'aeroporto. Ah, perfetto. No, ma aspettavo che fosse un autista italiano partito dalla stazione centrale e mi faceva ridere in Thailandia così improvvisamente, sì, in contromano. Immagino le goccioline di sudore lungo la schiena in quel momento, E poi praticamente in una salita, sì, andavo su in questa salita con quest'autobus vecchiotto, a un certo punto ha rallentato per un'auto davanti e si è fermato. Poi nel ripartire non riuscivo più a ingranare la marcia. Io ero seduto praticamente dietro l'autista che lo guardava, no? E vedevo che questo l'auto iniziava a muoversi in discesa e lui cercava di metterlo dentro la prima e non entrava. A un certo punto vedo che apre la porta e salta giù. Lui? Sì, l'autista. Cioè si salva. E voi? Visto che non riusciva praticamente a fermare l'autobus, cosa fate? Ci abbandonate? Uno schettino thailandese, se si può dire, sì, così, sì, diciamo. Paolo, per concludere, com'è andata a finire? Lei è ancora vivo, quindi non siete morti tutti. ho avvisato gli altri, ho guidato, tenetevi, tenetevi, e abbiamo fatto più o meno... Ha guidato lei? Ha guidato lei, ma qui è una storia... No, ho avvisato gli altri, sì. Ho guidato di tenersi, sì. Perché chi è che riuscì a fermare un autobus? Non lo so. Siamo teniti nei, ma poi chi lo ha fermato l'autobus? Non ci tenga in suspense. Abbiamo fatto un 150 metri in discesa, poi siamo andati dentro un fosso con l'autobus. Ah, ecco, il fosso. Ah, perfetto, il fosso. Vabbè, una vicenda assurda ai limiti, diciamo, della cronaca nera. Grazie Paolo, alla provincia di Vicenza. Ne abbiamo avuti di racconti assurdi. Qua siamo andati anche fuori confine. Però, insomma, noi chiedevamo momenti belli. Questo era un momento particolarmente brutto. L'abbandono autobus dell'autista thailandese mi sembra un momento incredibile. Però non vale, non concorre, perché siamo fuori d'Italia. Secondo me non possiamo verificarla, tu possiamo dici è la classica storia che uno piazza in Thailandia, in realtà gli è successa a Pisa, ma è semplicemente che fa più esotico. Va bene, aspettiamo ancora altri racconti all'800 24 00 24 prima di assegnare i biglietti per la mostra a Estesis a Villa Panza a Varese. Ci sentiamo tra un attimo, anzi no, ci sentiamo adesso, ci sentiamo subito, però parliamo di una bella notizia. Questa è veramente bella, perché parliamo dello sciopero intelligente. Mi piacerebbe cantare una canzone intelligente che segua un filo logico. Cocchi e Renato in prestito, la canzone intelligente. Giganti. Non potevamo non sceglierla. Ti ricordi, Carlo, che avevamo fatto anche il gioco con gli ascoltatori sul consigli ai sindacati per scioperi diversi, alternativi? Certo. Infatti, io pensavo che fosse questa la notizia, che hanno accolto una delle nostre proposte. Alla CISL ci hanno sentito, in particolare al FIT CISL, cioè il settore trasporti del sindacato CISL. Ne parliamo con Giovanni Luciano, che è segretario generale. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Perché voi state portando avanti una petizione, un'iniziativa di legge popolare, per cui si può anche andare a firmare per sostenerla se qualcuno ci crede, e ci crederà dopo averla sentita anche dai nostri microfoni, per un sciopero nei trasporti intelligente, cioè cambiare le regole, fare meno danni a chi prende i mezzi pubblici e più danni all'azienda. A me sembra un'idea geniale. Ci spieghi lei, lascio a lei di spiegare cosa volete fare. Ah, la ringrazio molto dell'apprezzamento preventivo. No, è semplicemente noi stiamo portando avanti questa idea, perché sembrerà strano che lo diciamo proprio noi, ma per fare meno scioperi. Sì. Per fare meno scioperi come? Correggendo uno squilibrio attuale della legge. Sì. La legge che regola gli scioperi oramai da 20 anni è incentrata esclusivamente sulla come dire, censura ai comportamenti non burocraticamente corretti fatti dai proclamatori dello sciopero, che siamo sempre e solo noi. Voi, sì. Ma siccome le cause degli scioperi sono molto spesso di quanto possano pensare tutti, in capo a comportamenti, prendo il termine del Presidente della Commissione di Garanzia degli Scioperi, comportamenti disinvolti, perlomeno disinvolti, delle aziende. Sì, vabbè, ma questo guardi, lo diamo. Sì. Quindi, lo possiamo dare per scontato che i lavoratori scioperano perché hanno qualche problema con l'azienda. Ma capiamo, insomma, cos'è questo nuovo modo di scioperare. La cosa interessante mi sembra che voi cercate un modo, e lo state sostenendo anche con questa raccolta firme, che diventi una legge, per esempio, il giorno dello sciopero il viaggiatore viaggia gratis. Io credo che uno che sente questa cosa dice: ah, finalmente. Però finalmente c'è sciopero. L'azienda, vengono bloccati i contributi pubblici. Ecco, allora andiamo per ordine, altrimenti facciamo un po' di confusione. Ecco. Dunque, per gli scioperi a sostegno dei rinnovi contrattuali, sì, noi chiediamo con questa iniziativa di legge popolare, chiediamo essenzialmente poche modifiche alla legge, che si sostanziano in, prima cosa, quello che avete detto voi: nel giorno dello sciopero le aziende non ricevono i contributi pubblici. Perfetto. Non ricevono. Primo Perfetto. Punto. Poi, dove vanno questi contributi pubblici? Vanno nei fondi di garanzia per sostenere le crisi aziendali. Okay. Perché sono fondi di solidarietà che servono per sostenere. E sappiamo che di crisi aziendale purtroppo ce ne sono sempre parecchie. Perché accompagnamento a pensione, certo, collocazione dei lavoratori e quant'altro. Seconda cosa, siccome c'è lo sciopero, mi direbbe qualcuno: che mi stai dicendo? Come? Certo che viaggio gratis, non viaggio. No, perché nei giorni di sciopero, ricordo a tutti, garantiamo per esempio nel trasporto pubblico locale 3 ore più 3 ore, 6 ore di trasporto garantito per pendolare gli studenti per andare e tornare diciamo dal posto di lavoro. In quelle ore lì voi dite in si viaggia gratis. Noi chiediamo che i viaggiatori, noi lavoriamo ovviamente per dovere di legge, questo è già così, però in quelle fasce orarie le persone viaggino gratis. Sì, che comunque è già un giorno dove non si paga moltissimo il biglietto, perché di solito un ragazzo dice vabbè c'è lo sciopero, non ci sarà proprio oggi il controllore, e tutti gli altri in realtà di solito hanno l'abbonamento. Però devi pagarlo il biglietto. Eh sì, ma cioè, i pendolari hanno l'abbonamento, quindi... Ecco, ma c'è una cosa anche per i pendolari, vero Luciano? Sì, e poi c'è, ovviamente, siccome i pendolari sono essenzialmente tutti abbonati, sì, ovviamente per evitare di escluderli, all'atto del rinnovo dell'abbonamento devono avere scontato quel giorno. Ah, questo è interessantissimo. Vedi, mi ha risposto perfettamente. Quindi, e mi ha rimesso in riga. Il vantaggio per chi viaggia quel giorno, che nelle fasce di garanzia viaggia gratis, l'abbonato che riceve un abbonamento da utilizzare al rinnovo, quindi avrà un piccolo bonus, l'azienda viene penalizzata con lo stop dei contributi pubblici. A me sembra una proposta molto sensata, ragionevole, intelligente, un meccanismo nuovo. Come si fa per sostenerla? Bisogna venire a firmare, perché volete farne una legge di iniziativa popolare, vero? Sì, noi abbiamo già lanciato, l'abbiamo depositata il 30 di luglio in Corte di Cassazione, abbiamo un sito www.scioperointelligente.it. Bene. Stiamo predisponendo banchetti, chi vuole informarsi anche dove poter andare a firmare può appunto andare su questo sito scioperointelligente.it. E praticamente in tutti i comuni abbiamo depositato i moduli per la raccolta firme, e si possono informare anche le sedi della FITCIF. Perfetto. Che sono in tutta Italia. Quindi o sul sito scioperointelligente.it o nelle sedi della CISL. O alla CISL. Certo. Va bene, noi vi sosteniamo, vi seguiamo, vi appoggiamo a distanza, ci piace questa proposta. In bocca al lupo, fateci sapere poi i prossimi passaggi, se e quando approderà eventualmente in Parlamento e se diventerà legge, naturalmente lo sapremo. Il cammino non è facile, però intanto la proposta c'è, eh? Grazie ancora, in bocca grazie al lupo mille. Giovanni Luciano, segretario FIT CISL. Grazie a voi. 800 24 00 24, cari ascoltatori, che ne pensate di questa proposta di sciopero intelligente sui mezzi di trasporto? Insomma, non sarebbe una rivoluzione, perché sempre di sciopero si tratta, però intanto piccoli aggiustamenti che vanno più a danno dell'azienda e meno di chi ne fruisce del servizio, cioè i viaggiatori, i pendolari, che già hanno tante rogne e che il giorno dello sciopero veramente vanno in depressione totale. Così, diciamo, sarebbe giusto un piccolo tendere un po' la mano. Allora, volevo dare una piccola notizia, sì. Visto che sennò poi mi dicono che parlo sempre di notizie gay, e prima ho parlato dell'insegnante gay, adesso parlo invece di insegnanti eterosessuali, immagino, che a Scarmagno in Piemonte sono state sospese le maestre della scuola elementare che facevano dei temi stranissimi ai loro allievi. Non so se hai letto, Alessio, tipo: vorresti che morisse prima la mamma o il papà? Ah, e ci sono state le reazioni dei bimbi che tornavano a casa con questi temi straordinari e i genitori che non sapevano esattamente come gestirla. Oppure un altro tema di queste maestre a questi ragazzini è stato: il sesso è quando i vostri papà si fermano per strada con le prostitute di colore, oppure quando le vostre mamme fanno l'amore con altri uomini? Oddio, ma queste erano fuori di testa, non voglio neanche sentirlo. C'è siccome se no che parlo solo di cose gay, invece diciamo ma che esiste vero, anche l'istruzione eterosessuale, che è questa. È realtà questa notizia? Sì, sì, sì, sì, la notizia è assolutamente... Cos'è la fonte? Sarà mega uno di quei siti? È Repubblica. Repubblica, direi che... Traffico. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, 800 24 00 24. Abbiamo ancora lo spazio per sentire Fernanda, che ci chiama dalla provincia di Novara. Buongiorno Fernanda. Buongiorno. Buongiorno. E io volevo raccontarle, allora, circa 30 anni fa ero sul treno Roma-Milano. È arrivata? Sì, sì, sono qui. Perfetto, perfetto. Questa è già allora, una notizia, vai. Allora, sul treno eravamo in uno scompartimento, sa, quelli piccoli a 6. Allora, sì. Io, mio marito, mio figlio decenne, un sacerdote e un ragazzo. Mancava un posto libero. Sulla banchina della stazione, era ancora fermo il treno, è arrivata una coppia di genitori con, accompagnava una ragazza tipo ventenne e cercava con lo sguardo un posto sicuro per far salire la propria figlia, e naturalmente ha visto che nel nostro scompartimento mancava un posto e l'ha fatta salire. Dopo un po' il treno è partito e questo, il ragazzo e la ragazza hanno incominciato a parlare, si sono presentati, hanno parlato del più e del meno eccetera, insomma ogni pezzettino che si faceva, ogni galleria, questi diventavano sempre più intimi, ma lo dico con un cioè, sono passati 30 anni ma mi viene ancora, però, arrivati a me, ecco, insomma poi sono usciti nel corridoietto, sa che c'è fuori il corridoietto quello, certo, mano nella mano, si sono baciati, arrivati a Milano sono scesi abbracciati uno con seguiti l'altro, seguiti dal sacerdote che li voleva già sposare? Quasi, insomma. Ma è bellissima questa storia. Io ho pensato ai genitori che hanno cercato il posto sicuro, però nello stesso tempo sempre nello sguardo, il loro sguardo così bello, affascinante, giovane, cioè che mi viene sempre in mente quando, non so, mi succede qualcosa magari di non particolarmente bello, allora mi vengono in mente questi giovani. Ma è bellissima la storia. Va bene Fernanda, è bello questo racconto. Speriamo che ci stiano ascoltando i due giovani e che in qualche modo contattino lei attraverso Radio 24, di modo che vi rincontrate e facciate un altro viaggio in treno insieme. Vabbè, caramba questo è proprio. Bellissimo. Adesso siamo quasi in chiusura, ma abbiamo ancora il tempo per parlare di una iniziativa. Segnatevi questo hashtag Science Ballet Challenge. Mr. Bombastic, we order some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy! Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover, lover. Girl. Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Roll. Una sfida a sparare bombe, proiettili, ma non nel senso militare o artificeresco del termine. Adesso capirete di cosa sto parlando. L'ha lanciata Patrizio Di Micco, un ricercatore della Sapienza di Roma, ideatore di una campagna a sostegno della ricerca in Italia. Patrizio Di Micco, eccolo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Nel video che lancia questa campagna si vede un guanto da cucina di plastica che si gonfia perché c'è dell'aria compressa sparata dentro e che poi esplode. Insomma, idee originali tra ricercatori che sicuramente ne avranno per fare dei video, un po' come è stata la campagna dei secchi d'acqua gelata per trovare fondi per la ricerca. Patrizio, in un minuto, perché poi davvero purtroppo non abbiamo molto tempo, ti chiedo di lanciare questo appello forte a favore della ricerca. Sì, guarda, cioè chiedo a tutti i radioascoltatori di sostenerci, non chiediamo soldi come fanno invece queste associazioni antiprivati, fate il vostro video, cercate il vostro bullet, un colpo che voi preferite, per sostenere appunto noi ricercatori. Che ci vuole fantasia però per questo bullet, perché non è facile. Assolutamente, assolutamente. Vuoi dare qualche suggerimento, qualche consiglio? No. Qualche suggerimento, non lo so, veramente, per usare la fantasia secondo me... Ognuno si eserciti con la sua fantasia, va bene. Per sostenere la ricerca pubblica italiana, che è lei la vera precaria della situazione, è lei che sta morendo in questo paese, e non solo, anche a livello europeo ovviamente. Tutto questo, Patrizio, lo diciamo fra l'altro nella settimana in cui c'è il Festival della Scienza a Genova, per cui insomma anche questo è un appuntamento importante da ricordare. Noi siamo in chiusura, diciamo che i biglietti per la mostra Ice Stasis li vince Angelo dalla provincia di Bergamo, che è sceso dal treno in corsa mentre era militare a casa e ritrovare la fidanzata dopo 3 mesi. Vince e ricordiamo biglietti. Anche che stanotte torna l'ora solare, quindi mettete le lancette indietro di un'ora. Ci sentiamo domani, buona giornata a tutti. Grazie ad Andrea Piana, Giorgio De Luca, Carmela Lauricella. Ciao da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini. Ciao.